Benvenuti alla 20ª puntata di Cialtroni nello spazio. La trasmissione di musica e cultura informatica che ogni settimana viene tenuta dal Circo Lab in collaborazione con Radio Onda d'Urto. Oggi, visto che Marco si era preparato la frase, non gli ho fatto la domanda. Però te lo lascio anche ripetere che cos'è Cialtroni nello spazio. Ce lo dice subito Francesco. Vabbè, dai, insomma, stiamo iniziando un po' male, mi sembra, oggi. Sì, allora. Vabbè, innanzitutto un saluto da Francesco. Da Marco. E da Fabio. E da Alessandro. Fabio ha promesso che oggi dirà qualcosa, diversamente dall'ultima volta dove ha fatto... Solo i saluti. E siccome sarà un argomento anche abbastanza semplice, saranno tutti felici di ascoltarti, Fabio, perché come al solito abbiamo scelto per te l'argomento, anzi ti sei scelto da solo un argomento veramente sì, sono un alla portata di tutti. Vabbè, però già oggi potremo anche ricollegarci a quello che ci avevi fatto un paio di settimane fa, un discorso sul wifi, perché insomma vedremo qualche news che è uscita. Ma prima di questo una breve scaletta di quelli che sono gli argomenti di oggi. Chi la fa? Beh, potrebbe farla Alessandro, ad esempio. Sì, maledetti. Allora, oggi andiamo a parlare... Ma si può bestemmiare in radio. Non ho bestemmiato, ho detto maledetti, quali voi siete. Allora, oggi andiamo a parlare di, come al solito, un paio di news. Parleremo di una lettera recapitata al Presidente del Parlamento Europeo da parte della Free Software Foundation Europe a proposito dei brevetti software, ovviamente, che sono il tema di questo inizio 2005. E una lettera il cui testo integrale è stato riportato sul sito Punto Informatico e comunque da altre parti, che riporta un po' di esempi di cosa potrebbe essere brevettato e di cosa è già brevettato oggi in Europa e i danni che potrebbero... Ma stai facendo il sommario o stai facendo la news? Va bene. Altra news, sempre dal sito Punto Informatico, il progetto DVD Decrypter, che è uno dei software più utilizzati per la decriptazione dei DVD, verrà sospeso, l'autore ha deciso di non proseguire, vedremo le motivazioni. Poi presenteremo un libro, un altro libro che è stato pubblicato a maggio, sempre sotto licenza Creative Commons, è stato pubblicato da Prima Ora. Un libro che parla di copyleft, open source, eccetera. Parleremo altre news. La censura in Cina in particolare. Censura in Cina, che è sempre un tema in voga. E poi presenteremo un simpatico programmino per anonimizzare la connessione via internet, ovvero per non farsi rintracciare via internet con un sistema relativamente semplice. Ecco, quelle classiche cose che si vedono nei film quando ci sono le frecce che partono da una città verso l'altra nei misteriosi tentativi di intercettamento della polizia. E ecco, si insomma, perdono nel mezzo. Sì. Una cosa di questo tipo. Allora, invece partiamo subito con il gruppo... Della musica, esatto. Esatto, col gruppo musicale. È un gruppo che allora, si scarica dal sito azaelo.org. È un sito che praticamente hanno allestito questi del gruppo. È un gruppo che si chiama Ellissi nel cerchio, cantano in italiano, fanno un genere vicino a quello dei Marlene Kunz, più o meno sull'indie italiano. E ci andiamo a sentire, allora, l'album si chiama Ellissi nel cerchio 00, vabbè, sostanzialmente l'album d'esordio, e ci andiamo a sentire il secondo brano. Dentro scatola chiusa, senza alcuno ricordo, solamente lo sbaglio, la domanda mal posta, sull'origine incerta, maledetta domanda, non esiste risposta, ma cercando la striscia dentro iniziamo con qualche news, come dicevamo. Partiamo da quello che accadrà nella grande metropoli italiana di Roma, che cerca di avvicinarsi alle altre metropoli americane ed europee. Lo fa un po' sulla carta, in realtà. Sta per partire un progetto di apertura di alcuni hotspot che saranno sostanzialmente messi nei grandi parchi di Roma per l'estate. Un hotspot, lo stavo per dire, ovviamente, è sostanzialmente un punto di accesso wireless, ovvero senza fili, ovvero se uno ha un computer portatile con una scheda senza fili, di cui abbiamo già parlato in una delle trasmissioni precedenti, mi pare nella trasmissione numero 18, ma non vorrei sbagliare, ci si può accendere il proprio computer, dare un semplice comando e collegarsi direttamente a internet. Inizialmente questo dovrebbe partire il 28 luglio, i primi 15, anzi, hotspot nel parco di Villa Borghese saranno in grado di coprire 300 metri e a ciascuno si potranno collegare 50 persone. Per farlo sarà necessario registrarsi attraverso il portale del comune e all'inizio si potrà navigare in internet per non più di un'ora al giorno, una limitazione che l'amministrazione dice essere imposta dalla volontà di scoraggiare l'utilizzo per scaricare file audiovisivi e musicali. E poi tra settembre e novembre la sperimentazione sarà estesa anche a Villa Torlonia, Villa Ada e Villa Dora Panfili. E questo per quanto riguarda Roma Wireless, che è un esperimento che dovrebbe durare un anno circa. Poi passiamo alla prossima news, una lettera dai brevetti europei, Marco, che si trova qua. Allora, perfetto. È di questi giorni la lettera del presidente della Free Software Foundation europea, ovvero sia la Fondazione per il Software Libero Europeo, che appunto vuole mirare a sensibilizzare i parlamentari europei riguardo alla situazione dei brevetti software. Un minuto di riassunto su quanto è successo nei brevetti software: fondamentalmente le grandi lobby del software americane, Microsoft, Xerox e anche qualche ditta europea tipo la Nokia o la Siemens, stanno spingendo in modo da far passare una direttiva europea che obblighi poi gli stati membri a creare delle leggi che permettano appunto la brevettabilità del software. Brevettabilità del software che sulla carta si presenta come una delle cose più tremende che si potessero mai decidere di far diventare legge, in quanto appunto nella stessa lettera del presidente della Free Software Foundation ci sono degli esempi di carte che vengono utilizzate addirittura, vabbè, normalmente dai vari siti relativi alla restituzione europea. Esempi. Per esempio c'è un sito in cui si può andare a ascoltare in diretta i discorsi dei parlamentari europei con le varie traduzioni nelle varie lingue. Questo sito, che è un sito appunto del Parlamento Europeo, viola immediatamente. Viola. Non è il colore viola. No, okay. Viola immediatamente 3-4 brevetti relativi alla diffusione su internet di streaming su internet di trasmissioni audio oppure. Cioè, insomma, sembra che ci siano dei brevetti molto generici su cose che sono. Esattamente. I brevetti che viola questo sito sarebbero Viola. Io ho la mia visione dell'italiano. Allora, viola il brevetto che copre il formato MP3, il brevetto che copre la messa a disposizione di filmati su internet. Tutti questi hanno il loro bel numerino di brevetto, naturalmente, che vi potete andare a vedere sul sito. Copre il brevetto video on demand. E quindi già questo sito del Parlamento Europeo violerebbe già 3 brevetti. Altri esempi? Altri esempi, altri siti, sempre, vabbè, questa lettera si punta relativamente sui siti relativi appunto al Parlamento Europeo, ad esempio in alcuni siti che utilizzano la visualizzazione a scheda, protetto da brevetti, altri siti che utilizzano delle piccole immagini facili, cioè veloci da caricare. Le icone, thumbnail. Sì, esatto, le thumbnail che appunto permettono di vedere cosa c'è in una fotografia senza scaricare completamente la fotografia. Questa è protetta da un altro brevetto. La situazione è, ci sono altri brevetti citati, la situazione è abbastanza pesante, soprattutto perché questi brevetti non sono praticamente mai stati brevettati dagli ideatori, anzi gli ideatori li hanno considerati una cosa normale e di pubblico utilizzo, mentre invece le grandi multinazionali del software hanno iniziato a brevettare a tappeto qualsiasi cosa, dal doppio clic al trascinamento delle icone a praticamente tutto. Per cui se questa normativa questa direttiva europea sul software verrà approvata com'è in previsione di approvazione, se non sbaglio, al 7 di luglio, non vorrei dire una cretinata sulla data, e vabbè, il 6. 6 di luglio sarà, diciamo, una situazione scritto su quel foglio che c'è lì di fronte a te, tanto per capire chi sono questi brevettatori. Ad esempio il tab browsing, cioè quella, appunto, la visualizzazione a schede dei siti, è stato brevettato niente poco di meno che, vabbè, il nome dell'inventore è Johnston Kevin, che però fa riferimento all'Adobe System Inc, quindi Adobe Photoshop, tanto per farci capire, americana ovviamente. Esatto, perché infatti la parte finale della lettera appunto evidenzia il fatto che questa normativa non andrà a aiutare minimalmente le comunque grandi aziende. Allora, fondamentalmente questa normativa sarà contro tutte le piccole e medie aziende che si troveranno di fronte al dover decidere sul proprio sito di non utilizzare ad esempio la visualizzazione a schede, non utilizzare particolari formati, non poter vendere roba su internet perché è protetta da brevetto. Quindi per le piccole e medie imprese questa qua è un'ecatombe. Per alcune grosse imprese europee potrebbe essere favorevole, ma in realtà anche qui si parla di un 23% dei brevetti software detenuti da ditte europee contro il 77%, sì? Sì, 77% sì, circa detenuto da multinazionali americane. Ad esempio la visualizzazione di immagini ridotte di contenuti più di immagini più grandi, appunto i cosiddetti thumbs, le anteprime. Bravo, Fabio. Bravo, grande. Che sono esattamente quelle che ha appena citato Marco. Sì, ma io non ascolto mentre voi parlate. È detenuto dalla IBM, sempre americana. Vabbè, passiamo, insomma, speriamo che questa lettera possa far capire che, già violando il fatto che il sito del Ministero dell'Europeo, il Parlamento Europeo abbia già infranto numerosi brevetti solo essendo online così come è adesso, possa sensibilizzare i parlamentari che vanno a votare il prossimo 6 luglio. Passiamo alla prossima notizia, che si tratta di... Fabio, ci volevi parlare di? Nel microfono, studio, sì, degli esperti, perfetto, della OECD, che dicono che hanno fatto uno studio sull'incidenza del peer-to-peer nella vendita dei CD. Che cos'è l'OECD? L'OECD, mi coglie impreparato, è l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo. È un'ONG che si occupa appunto di tecnologie che poi hanno delle ricadute sull'economia mondiale e sullo sviluppo. Esatto, hanno fatto uno studio appunto per capire quale poteva essere l'incidenza del peer-to-peer sulle vendite e più che altro sui cali di vendite e sul mercato discografico. Sul mercato discografico. Il risultato è che l'incidenza del peer-to-peer sulle vendite dei CD è basso. È più da imputare, secondo gli esperti dell'OECD, ad altri fattori l'andamento negativo delle vendite dei CD. Uno di questi potrebbe essere il prezzo elevato dei CD, la popolarità dei DVD o dei videogiochi, o anche cosa può essere? Oddio. Vabbè, diciamo che poi fondamentalmente il problema è che alle varie ditte discografiche fa molto comodo prendersela. Sì, un capro espiatorio è molto facile quello di denunciare, cioè di accanirsi contro chi scarica la musica in rete e magari non ne fa neanche copia su CD, neanche la dà gratuitamente a un suo amico, ma se l'ascolta e basta. È molto più facile prendersela con questi poveri disgraziati che non fare un... liberalizzare un mercato della musica come sta avvenendo ad esempio negli Stati Uniti o in altre realtà, come... ma soprattutto fare una sorta di autocritica sul contenuto, esatto, della produzione, perché comunque dallo studio risulta che ad essere uno dei principali motivi del calo delle vendite per il materiale multimediale sia proprio la scarsità dei contenuti e della qualità del materiale stesso, per cui chi di fatto acquista o è interessato alla musica in generale difficilmente ritiene il download un sostituto dell'acquisto del CD. Per cui di fatto a creare il forte calo delle vendite è proprio la scarsità della qualità, l'hit mordi e fuggi, diciamo. Esatto, è anche il fatto della standardizzazione o comunque dell'omologazione della proposta. Della musica, delle hit cosiddette, che passano per radio, sono tutte uguali. E non c'è cura nella qualità della musica, ma più che altro si guardano i numeri e le vendite. Ok, altra news e poi abbiamo concluso. C'era quella della Cina? C'era la Cina? Sì. Parlo io. Allora, la Cina è nota per non essere il paese più democratico della faccia della terra, anzi probabilmente è uno dei paesi meno democratici. Il problema è che la Cina... Tale. La Cina però è anche una nazione con 1,6 miliardi di persone che diciamo fa molta gola, diciamo, a tutti per l'elevato numero di clienti che appunto la Cina si porta dietro quindi cosiddetto bacino d'utenza, esatto, che è mostruoso, metà mondo, esatto. Tra Cina e India siamo veramente, penso, oltre la metà del mondo. E appunto la Repubblica Cinese da sempre attua delle politiche di censura e quindi anche per quanto riguarda le nuove tecnologie e in particolare internet sta applicando gli stessi ragionamenti di censura e di limitazione delle libertà personali e delle libertà di espressione appunto per nascondere questo suo stato di... Esattamente cosa è successo? Vabbè, allora, fondamentalmente ci sono un paio di notizie di questi giorni. Sono la prima che il governo cinese ha obbligato tutti i possessori di un sito web o di una qualsiasi forma di diffusione di materiale su internet a registrarsi presso il governo, per cui... andando di fatto a schedare esatto ogni possibile forma di ogni possibile voce libera che potrebbe parlare in Cina, quindi nessuno può, cioè diciamo se qualcuno prova a pubblicare su internet qualche critica al governo cinese, il governo cinese guarda il sito e dice ah questo qua è di questo tizio, va a prendere il tizio e lo sbatte in carcere e butta via la chiave e questo, simpaticoni, esatto. La seconda news appunto di questi giorni è che ovviamente come dicevo il mercato cinese fa gola a molti e la Microsoft è partita proprio in questi giorni con il suo nuovo servizio di possibilità di aprire un blog, ovvero sia una sorta di diario che una persona tiene su internet, e appunto di aprire la versione cinese del suo blog MSN Spaces, e questo blog rifiuta automaticamente un sacco di parole, tra cui democrazia, Dalai Lama, 4 giugno, il giorno del massacro di Tiananmen, diritti umani, insomma un sacco di parole vengono bloccate direttamente quando vengono inserite, e il messaggio di errore è abbastanza esplicito e dice questo messaggio conteneva delle parole bannate, proibite, siete pregati di eliminare quell'espressione. Ok, ci ascoltiamo un altro brano musicale, poi andiamo a presentare il libro. We'll be right back. accendino al mio sole un cielo che non faccia male. Che non ho più voglia di ricordare. Non ho più niente ormai. Procediamo un po' più, procediamo un po' più veloci adesso, visto che abbiamo parlato molto di news. Presentiamo un po' il libro, Alessandro, che, di cui volevi parlarci questo pomeriggio. Allora, è un libro che viene, è stato presentato proprio oggi, martedì, mentre noi registriamo. Cioè, ieri. Sì. Tu non riesci proprio a entrare nell'ottica del fatto che noi registriamo, ma la gente no, ci ascolta il mercoledì attorno a lui. Voglio chiarire che noi siamo registrati il martedì. E allora, il libro si intitola Oppure ci avete già sentito ieri. Sì. Non è vero, dai, lasciamogli spiegare questo libro ad Alessandro. Allora, si chiama Copyleft and Open Content di Simone Aliprandi, che è un neolaureato sostanzialmente in giurisprudenza. Si è laureato nel 2003 all'Università di Pavia su una tesi appunto sulle licenze libere e una storia dell'open source. Dal momento della laurea, insomma, ha cominciato a girare un po' vari convegni e cose, appunto presentando vari aspetti legali e non legati alle licenze open. Veniamo al libro. Allora, quello che c'è scritto nella retrocopertina, quindi come si presenta, è un saggio che si può definire un testo completo e onnicomprensivo riguardante la nuova cultura open source e open content derivata dall'avvento rivoluzionario di internet e della multimedialità. Si raccolgono gli elementi storici che hanno portato la scienza informatica sulla strada del New Linux e del software libero in generale, e si commentano nei dettagli i principi giuridici nati o modificati da tale filosofia. Inoltre, ecco l'aspetto più originale dell'opera, si esaminano e ipotizzano i riflessi che essa può apportare nell'ambito della creatività in senso più ampio, manualistica informatica, editoria multimediale, musica. È questo il panorama in cui si realizza la dicotomia fra il copyright tradizionale e il suo più interessante figlio degenere, il copyleft, fenomeno che ormai si pone come innovativo modello di gestione dei diritti di proprietà intellettuale nell'attuale mondo multimediale interconnesso. Beh, questo era come viene descritto il libro in retrocopertina, per cui incensa parecchio il libro. Comunque il libro è effettivamente scritto bene, è estremamente chiaro e divulgativo, per cui a differenza dell'altro libro di cui avevamo parlato due settimane fa, che insomma era comunque trattava un tema piuttosto ostico e anche con una certa difficoltà, questo è un libro che si può consigliare a tutti, sostanzialmente quelli che comprendono l'italiano, perché non è né tecnicamente dal punto di vista informatico né giuridico troppo complesso, e è piuttosto esaustivo, nel senso che viene ripercorso un po' la storia dell'open source, quindi del movimento del software libero, e anche della cultura hacker, ai suoi inizi. Il libro è disponibile sotto licenza Creative Commons sul sito www.copyleft-italia.it, che è un sito gestito direttamente da Aliprandi, e da cui è possibile scaricare appunto il libro in formato PDF. Il libro è pubblicato anche da prima ora, in casa editrice di Lodi, pubblicato nel marzo del 2005, costa 12 euro, non è molto grande, sono 180 pagine circa, per cui si legge anche facilmente, e un libro assolutamente consigliabile per chi vuol cercare di capire un po' di più di questo fenomeno e soprattutto delle conseguenze che ha innanzitutto capirne le origini, quindi tutta la prima parte storica, e capire anche dove va a parare oggi l'open source, il copyleft e quant'altro. E visto che siamo un po' in ritardo, direi senza troppi stacchi musicali, passiamo alla presentazione del programma di oggi, che più che un programma è una suite di programmi, o comunque adesso faremo qualche domanda difficile a Bio, che si è proposto di presentare questa... come la possiamo chiamare? Un programma? Una struttura? Non saprei neanche io come chiamarlo. Comunque si chiama Tor. Si chiama Tor. Sì, si chiama Tor. Ne avevamo già accennato parlando della European Frontier Electronic Frontier Foundation. Esatto, l'EFF. Allora, cosa permette di fare Tor? Tor permette di navigare in modo anonimo e di pubblicare in modo anonimo su internet. Partiamo dal presupposto che quando noi siamo su internet e visitiamo qualche sito web, questo sito web riesce a capire chi siamo noi in linea di massima, perlomeno da dove stiamo accedendo, siamo italiani piuttosto che inglesi o americani. E questo è facilmente anche verificabile, ci sono dei siti, per esempio Google. Google tools, non avete mai notato che chiamando Google vi restituisce la pagina nella lingua con cui lo chiamate lingua. E come cacchio fa a saperlo? Nella lingua del browser, esatto. Che è impostata sul browser. No, in base all'IP lo fa. In base all'IP. Capisce che noi veniamo dall'Italia e quindi decide di farci vedere determinate notizie rispetto a altre. Determinata pubblicità. Io stavo pensando a showmyip.com, però vabbè. Troppo complicato. Ecco appunto, le pubblicità piuttosto che visualizzarle in lingua inglese incomprensibile per un italiano, te la visualizza in italiano. Però diciamo, quando però noi stiamo navigando in internet, un qualsiasi punto per cui passa il nostro traffico, quindi potrebbe essere, siamo connessi con Libero, non so, il provider Libero, oppure il provider dall'altra parte, oppure qualcuno che si mette a ascoltare su una dorsale ad alta velocità, cioè comunque chiunque può vedere da dove arriviamo, che sito stiamo visitando, cioè non propriamente chiunque, però qualcuno potrebbe riuscire a vedere questo. Beh, arriva Tor. Cos'è Tor? Il proprietario del sito sicuramente si accorge che tu stai guardando il suo sito e quante pagine hai sfogliato, quali sono e tutto quanto. Con Tor questo è già un po' più difficile, perché la nostra richiesta di aprire una tal pagina web non va direttamente da noi verso questo sito, ma passa attraverso una rete, la rete Tor, che è nient'altro che una rete di computer su cui gira un software particolare, Tor appunto, che si incarica di, diciamo, mescolare o comunque far rimbalzare la nostra richiesta da un server all'altro fino ad arrivare a destinazione. La destinazione vedrà un IP che non è il nostro, ma è quello del punto d'uscita del pacchetto. E vedrà questo IP Stiamo andando un po' nel tecnico. Allora, non si accorgerà appunto che gli viene una richiesta da un indirizzo IP da una macchina, ma in realtà la richiesta viene da noi. Se cercassimo più o meno di vedere questa cosa, ad esempio pensiamo di avere il mondo davanti e noi abbiamo la nostra connessione a internet, cioè quando andiamo, non so, a visitare un sito americano, immaginiamo di vedere una specie di linea che si illumina e raggiunge questo sito americano. Quella della polizia che dicevo prima. Esatto. Quindi abbiamo questa, la palla della Terra, e la righina rossa che parte da Brescia e arriva a New York, ad esempio. Utilizzando Tor, questa righina rossa non parte da Brescia e va a New York, ma ad esempio fa il primo salto in Giappone, dopodiché se ne va in Olanda, dopo dall'Olanda passa alla Germania, dalla Germania passa al Canada, ritorna in Italia e poi va in un altro sito, ad esempio in Cecoslovacchia, e dalla Cecoslovacchia poi se ne va a New York. Quindi tracciare questo percorso pazzo in giro per il mondo di della nostra connessione è decisamente difficile per chiunque. Se non impossibile, appunto. E il principio di Tor è appunto questo: creare una specie di rete di incasinamento che alla fine non permetta a nessuno di capire chi si sta connettendo e da a dove. Quel determinato servizio. Pensiamo a questo servizio soltanto per in paesi come abbiamo citato prima la Cina, dove la censura è feroce e cattivissima. E qui l'aiuto di Tor è fondamentale, perché ci permette appunto, oltre che navigare, quindi andare a vedere dei siti, anche pubblicare materiale su internet in modo anonimo. Naturalmente non tutti saranno in grado di vedere quello che pubblichiamo, saranno in grado di vedere quello che pubblichiamo nella rete Tor agli utenti di Tor. Forse questo entra un po' troppo, è già una parte più avanzata di Tor. Torniamo un attimo alla modalità. È una caratteristica però molto interessante. Sì, assolutamente interessante. Stavo pensando piuttosto, ma è possibile utilizzare Tor solo se vogliamo navigare? Assolutamente sì. Cioè no. La risposta è solo se vogliamo navigare, la risposta è no, ma come no, perché? Cioè possiamo usare per esempio Tor anche se vogliamo utilizzare una chat, possiamo utilizzare Tor. Sì, certo. Ah, okay. Forse avevo capito male la domanda. Vabbè, non litigate, almeno tra di voi. No, con Tor si può navigare anonimamente, partecipare a una chat su IRC in modo anonimo, usare anche MSN. O qualsiasi instant messaging o come volete chiamarlo, scaricare la posta. Un'altra cosa interessante, che forse per gli italiani, insomma per un paese dove la censura non è fortissima ancora, una caratteristica interessante di Tor è che permette ad esempio all'interno di una connessione, non so, aziendale, piuttosto che all'interno dell'università eccetera, là dove ci sono connessioni protette che impediscono di raggiungere siti oppure impediscono appunto di entrare in chat eccetera, Tor permette di uscire da queste protezioni, di superarle e di rendere disponibile la connessione su qualsiasi tipo di servizio, comunque su quelli più tradizionali come appunto il web, l'instant messaging eccetera, sorpassando i filtri che le varie organizzazioni possono interporre. Come si installa Tor? Tor si installa non da solo, ha bisogno di un proxy per funzionare. Quindi e bisogna che cos'è un proxy? Bisogna installare. No, lasciamo perdere. Bisogna installare due programmi e non uno. Tor è un proxy, che comunque è molto ben documentato sul sito. Sì, ecco, sul sito è tor.eff.org. Vi ricordate www.eff.org dalla settimana all'altra? Ed è disponibile questo Tor appunto per Windows, per Linux e ogni Windows. Genere di Unix, sì. E quindi anche i vari BSD, oppure anche per macOS. Esattamente. Sul sito trovate tutte le istruzioni per l'installazione, corredate di immagini di ogni schermata di installazione, per cui è piuttosto semplice fare un'installazione base, diciamo. Per maggiori dettagli ci si può sempre collegare anche al nostro di sito, e qua mi attacco per dire che se Fabio ha finito, purtroppo credo che il nostro tempo sia più o meno scaduto. Se c'è qualcosa che volevi aggiungere così al volo in pochi secondi? No, non mi viene in mente niente. Beh, Fabio sta traducendo il manuale in italiano di Tor. Ah, ecco, sì, è vero, facciamo i complimenti e siete tutti... Da anni potremo leggere la documentazione in tutti i nostri ascoltatori che vogliono la documentazione di Tor in italiano possono scrivere direttamente a Spazio @circolab.net e noi gireremo la mail a Fabio. Ovviamente Zampa ha sbagliato. Ovviamente. È radio@numerica.org, probabilmente toppato in pieno. Il sito invece nostro è il solito spazio.circolab.net. E quindi direi che abbiamo detto tutto per oggi. Siamo a 40 minuti quasi. Sigla. Devi alzare il volume del... Finisce così quella che forse è la più lunga puntata di Cialtroni nello spazio mai esistita finora. Anche quella col numero più alto fino ad adesso. ventesima. Questo ancora per una sola settimana. Ci sentiamo mercoledì prossimo. Un saluto a tutti. Ciao. Finirà presto, non vi preoccupate.